c'è già una pressione alta e tu invece di abbassarla controlli, per dire, manometro, o non lo controlli, o non lo conosci, o non sai fare una manovra, e ti va in contropressione e ti si sfaccia, lo sai tu dove ci sei. Ti trovano galleggiando sopra il ponte piatto della Cinara. Ci conferma tutto quello che hai detto, e quello è una poco, ma ecco perché dico che chi fa determinati lavori deve conoscere sia la teoria che la pratica. È inutile conoscere solo in carta e non praticarlo, non ha un valore, non ha un significato, perché la carta è una cosa e la pratica è un'altra. Cioè ci vogliono tutte e due le cose, è inutile che mi diano un progetto e non conosco il progetto, oppure sono arrancato e mi danno un progetto. Comunque ti arrivo bene a casa tua. Così sei alla grande. Pagata, ho già il proxel normale, adesso dovrei ordinarmi il proxel prima presentato e poi vediamo un po'. Pagata, è andata bene, va. Sono contento che adesso c'è di nuovo il mobico e che ti funge bene. Pagata, no, mi piaceva perché vedi questo c'ha il frequenzimetro, ti segna la frequenza che tu fai. Già non ce l'hai, funziona uguale al mio, così che no, già va bene, vedo che sta spingendo bene. Pappa gappa, gli apparati funzionano tutti bene, ma se avere una buona antenna e vai alla grande. Sto ascoltando con l'altro apparato, già sto facendo bene. Poco fa avete parlato in due, però non ho capito una mazza. Buonasera, Antonio Brichetti della città di Sassari. Buonasera, buonasera, ben sentiti. Ciao Domenico, ben sentito anche a te, in compagnia di Mario Mansell e di Pomponio. Ti saluto Domenico e ti rilancio a Mario, vai.